Con Ivan Venturi, produttore di videogiochi, parliamo della giornata del 24 settembre all'interno del Future Film Festival. Sì, esatto, il 24 settembre è una giornata che all'interno del Future Film Festival è dedicata ai videogiochi, il tema è retrofuturo, diciamo il futuro è una cosa che fin dal passato appunto è stato ben presente nei videogiochi, in larga parte a tema fantascientifico, e quindi in una serie di interventi di sviluppatori di videogiochi, ma non solo, mostreremo come il futuro appunto era visto nel passato, questo comunque attraverso le opere, cioè quindi videogiochi, anche le opere tecno-creative realizzate dalle persone che interverranno. In coda alla giornata organizzeremo anche, sempre per parlare di passato e di retrofuturo, comunque la seconda Simulmondo Reunion, quindi la riunione di parte del team che, me compreso, contribuì a cofondare la prima software house italiana di videogiochi più di 30 anni fa. Una cosa bellissima. Quindi parlerete anche di quella che era la concezione del metaverso negli anni 90? Sì, esattamente. Ci sarà un intervento in particolare che sarà proprio con un videogioco disegnato e con un design proprio figlio degli anni 90, che risponde anche a quei canoni di genere videoludico e anche ai canoni estetici, la cui trama si basa proprio sulla visione della realtà virtuale che c'era negli anni 90. In tutto questo c'è stata una collaborazione anche con Bologna Nerd? Sì, assolutamente. Bologna Nerd, che ringraziamo, quindi Leandro Macrini, Alessia Di Vittorio e gli altri ragazzi. Bologna Nerd curerà l'allestimento di queste magnifiche macchine futuristiche del passato che saranno in mostra nella parte antestante del Cinema Arlecchino per i giorni del festival. Infatti ricordiamo che le location sono l'Arlecchino e il Mambo, se ben ricordo. Sì, per la giornata del 24 settembre abbiamo dalle 10 alle 13, quindi la mattinata, al Cinema Arlecchino, ingresso libero. E nel pomeriggio invece nella sala audiovisiva del Mambo, dalle 15 alle 19, e anche lì sempre ingresso libero. Grazie Ivan. Grazie a tutti voi.